gente Pardo per la radio sono come Mogol e Battisti per le canzoni. Solo che Mogol e Battisti c'erano sempre tutti e due, no? Quindi Pardo non c'è mai. Tutti convocati di Carlo Genta. Ed ora è l'ultima vasca, la vasca della verità, quella dell'appuntamento con la storia, quella in cui Federica Pellegrini potrebbe coronare una carriera pazzesca. Attenzione però al sorpasso di Ketil Edeki, Federica è seconda davanti alla Franklin che ora la attacca, memorabile Ketil Edeki e spettacolare Federica Pellegrini, 1:55:32, è medaglia d'argento, è la sesta volta consecutiva su un podio mondiale. Non farcela, tutti mi dicevano ma falli quattro stile che almeno è sicuro che prendi la medaglia, due ormai sono troppo veloci per te, e quindi è stato un po' difficile comunque lottare con queste voci e comunque l'ultimo mondiale riuscire a riprendere la medaglia in un due stile dopo 10 anni dalla prima, per me è stato importantissimo. Paltrinieri argento e spettacolo negli 800 stile libero 7:40:81, e gli ha fatto paura al cinese che esulta perché aveva i brividi lungo la schiena, ha rischiato di perdere negli 800 stile libero. La batteria è andata bene, la finale ancora di più, sapevo di essere in una buona forma perché in questi giorni stavo andando veramente forte in acqua, in riscaldamenti, così, quindi volevo far bene, speravo di fare un tempo del genere e non pensavo su, nel senso era il più accreditato a battermi in queste condizioni perché c'era lo sprint finale e tutto, però non sapevo se stesse così bene o no, però insomma sono contento. Una stella che sta nascendo dai Paltrinieri e un'altra che brillerà per sempre ed è Federica Pellegrini. Più tardi torneremo a parlarne. Intanto vi do il tempo di pensare se siete d'accordo con chi dice, chi scrive. Ad esempio Umberto Zapperoni, poi vice direttore della Gazzetta, poi vi leggo la parte finale del suo commento. Se anche voi pensate che Federica Pellegrini sia la più grande atleta di sempre nello sport femminile italiano. Parleremo di un sacco di cose oggi, ritardi di nuoto, parleremo di magliette, delle magliette nuove che stiamo vedendo, e oggi mi fa compagnia un'autorità suprema, anzi Barbone Supremo, leader di uno dei marchi storici più apprezzati dai calciatori italiani. Buongiorno Paolo Atti. Ciao, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere convocato. Ma adesso io partirei dalla Roma di ieri sera e dalla Roma sul mercato con il direttore del Corriere dello Sport Alessandro Vocarelli, che saluto e ringrazio. Ciao direttore. Ciao, buongiorno ciao. A voi. C'era un collega che prima mi diceva il Barcellona ti invita a cena, il problema è che la cena sei tu. Alla Roma è successo questo, 3 gol subiti, 3-0, mi sembra che sia la distanza in questo momento che divide la Roma dal Barcellona, così come quella che divide Milan dal Bayern. C'è una tendenza di cui parlavo stamattina in riunione, però, che non riguarda solo la Roma e che riguarda un po' tutte le squadre italiane, perché su credo 26 o 27 partite internazionali di un ottimo livello che sono state giocate fino adesso, credo che le italiane ne abbiano perse 17-18, cioè il 70-75-80%. Non so se vuol dire qualcosa, un ritardo di preparazione, una mentalità di affrontare queste partite non con lo spirito, diciamo, degli altri, però effettivamente un problema c'è che riguarda un po' tutto. Guarda il Milan che sta perdendo malamente come ha fatto, guarda l'Inter che mi sembra che non è che abbia ottenuto grandi successi, però quella del Barcellona, la battuta ci sta bene, che ti invita a cena e poi te magna, la cena sei tu, Hannibal Lecter Barcellona 8-0. Però c'è una cosa, sì, invece da sottolineare, che e come avete visto oggi Messi ha fatto una foto, un tweet, forza grande campione, che è Francesco Totti. Sì. E che non è la prima volta, adesso è successo a Barcellona, tempo fa è successo con Bale che gli ha chiesto l'autografo, insomma vuol dire che comunque qualcosa di molto molto importante lo riusciamo comunque a esportare. Su questo non possono esserci dubbi. 800240024 per intervenire. Magari questa tendenza delle italiane che comunque prendono schiaffi dalle squadre più titolate del mondo e più forti del mondo, come sono Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, eccetera, dipende anche dal fatto, ritardo di preparazione certo, noi come al solito iniziamo per ultimi, però dipende anche dal fatto che molti dei nostri quadri non sono ancora ultimati, non sono ancora imperfetti, ad esempio quella della Roma, Zeca sull'aereo arriverà stasera, sì. Salah si sta sbloccando, questo tira e molla con la Fiorentina, il Chelsea, eccetera. Cioè, quell'altro il Milan colpo, si è sbrigato a comprare gli attaccanti quando si doveva sbrigare a comprare i giocatori. Esattamente, cioè sono tutti quadri ancora molto in divenire. Hai ragione, sì è vero questo, ma infatti è un bel mercato questo, è effervescente però ancora incompleto, nel senso che tutti stanno aspettando, cercando qualcosa di molto molto importante, per cui sì, c'è una serie di componenti, il ritardo di preparazione, secondo me la mentalità anche, perché io ho visto il Barcellona ieri sera. A parte che quello stadio così suggestivo era già solo quello, diciamo, una cosa che ti doveva imporre di giocartela con la miglior formazione nelle migliori condizioni, e il Barcellona l'ha fatto. Noi a volte magari affrontiamo, mettiamo dentro la riserva, due riserve, tre riserve, insomma ecco, è una tendenza di andare a cercare, diciamo, queste grandi partite internazionali, però poi affrontarle magari con lo spirito di un amichevole. Secondo me questo è un po' sbagliato, nel senso che se ti avvicini a questi miti del calcio poi lo devi fare mettendo in condizione di giocare con la squadra migliore. Senti, ma la Roma con Dzeko, Salah e un terzino sinistro ancora non ben identificato, dove la metti? Sulla griglia di partenza? Sicuramente nelle prime tre. Io credo che la Roma si sia avvicinata alla Juventus, che ha fatto un ottimo mercato, ha perso tre giocatori fondamentali anche dal punto di vista del carisma, però ne ha aggiunti molto importanti, per cui rimane sicuramente la favorita d'obbligo, però secondo me la Roma si è avvicinata perché aveva un problema enorme, chiaro, oggettivo, che era quello del centravanti, e l'ha risolto con uno secondo me dei giocatori più forti a livello internazionale. Salah, l'abbiamo visto che il giocatore è un terzino sinistro, e poi non sottovaluterei l'arrivo del portiere, che mi sembra un po' originale negli atteggiamenti e a volte anche nell'estetica, però mi sembra un portiere di grandi potenzialità, per cui secondo me la Roma ha fatto un ottimo mercato. Sì, sta facendo un ottimo mercato. L'unico problema che vedo nella Roma è questo rapporto non così solido con Garcia. Non so se sia vero o se sia una mia suggestione, però mi sembra che la posizione di Garcia non sia poi saldissima, non sia poi certissima, non sia poi certificata da tutti, se non dai tifosi. Questo è, guarda, il mio retropensiero, che spero che Garcia smentisca brillantemente e velocemente, così da toglierlo un po' a tutti gli osservatori e ai tifosi della Roma. Garcia ha fatto bene, ma proprio bene il primo anno. Secondo me ha fatto male, ma proprio male il secondo anno, perché non solo ha sbagliato dal punto di vista della gestione tattica, della gestione dello spogliatoio, anche della comunicazione, quando a ottobre ha cominciato a dire vinciamo sicuramente lo scudetto, cioè non c'è bisogno di buttare benzina sul fuoco quando l'entusiasmo è già tanto, e lì secondo me quindi ha sbagliato tanto, e questa è la stagione che decide. Sicuramente lui è un ottimo allenatore. Speriamo che, come il primo anno ci ha sorpreso, diciamo, col suo modo diverso probabilmente di affrontare certe situazioni, nel secondo anno abbia capito che il suo modo diverso può essere eccessivo. Per cui se succede tutto questo, e poi vedi, io penso sempre che noi diciamo che l'ambiente fa i risultati. Io credo che siano i risultati che fare l'ambiente. Nel senso, certo. Tu cominci a vincere, come si augurano i tifosi della Roma, puoi essere amico o non amico, simpatico o non simpatico, esserci piccoli problemi, no, non ne parla nessuno. Se non arriva nei risultati, allora tutto quello che cova sotto le famose cenere invece viene fuori. Gli scricchioli arrivano, come è successo l'anno scorso e come non era successo nel primo anno di Garcia, perché non credo che sia cambiato molto i rapporti interpersonali. Vedi che ci troviamo. Penso che certe magari piccole disequilibri, diciamo così, che c'erano anche il primo anno, ma non ne parlava nessuno perché la Roma andava con treno. Sì. Secondo anno e le cose sono andate male e allora sono venuti fuori tutti i problemi. Nelle squadre di calcio è così, insomma, eh. I risultati poi determinano l'ambiente. Noi diciamo che è un ambiente tranquillo, no? Grazie direttore, a presto. Ciao, ciao. Ciao Alessandro Vocarelli, direttore del Corriere dello Sport. Ci fermiamo un attimo per il traffico. 800240024 è il numero verde. Poi parliamo anche di Milan, di magliette, di nuoto, di tutto quello che volete. Sim Sala B. Tutti convocati. Tutti convocati. Sto vedendo che tra i frequentatori abituali della schermata degli SMS 349-238-6666 gli ascoltatori si dividono su quanto detto all'inizio, cioè Federica Pellegrini è, può essere considerata la più grande atleta della storia dello sport femminile italiano, c'è chi oltre a Pellegrini mette la Vezzali, questo è correttissimo, è Roberto da Modena, c'è chi fa un'altra classifica, Federico, Josefa Iden prima senza discussione, Vezzali seconda, Pellegrini terza. Pensateci bene, poi ne parliamo. Matteo, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Inizierei con una piccola provocazione, perché è stato detto che la Roma giustamente le ha prese ieri e anche male dal Barcellona, insomma è stata una partita a senso unico. Vorrei ricordare però che la Juve ne ha prese due dal Borussia Dortmund senza mai tirare in porta con tutti gli acquisti, quindi sì, sì, ma la Juve va nello stesso calderone dell'italiane, sì. Da cui si toglie solo la Fiorentina, che invece dopo aver battuto il Barcellona ieri è andata a sbancare Stamford Bridge, lì andiamo in totale controtendenza. Sì, con una preparazione molto diversa comunque, perché Paolo Sousa sta facendo una preparazione molto più leggera, quindi vedremo un po' con il passare dei mesi come andrà a finire. Comunque chiedo, voi siete molto più esperti di me, se adesso come adesso, dopo aver soffiato al Barcellona Gerson, se la Roma non è la regina del calcio mercato proprio di quest'anno, no? Grazie, Prego. Buona giornata. Prego, adesso arriva Gerson, arriva Salah, o è già arrivato, Gerson arriverà a gennaio, lo ha soffiato, è vero, al Barcellona, con il Barcellona che mantiene però, secondo quanto so, mantiene un diritto di opzione su questo giocatore molto giovane, 18 anni, che costa molti soldi, un diritto di opzione nel senso che se la Roma deciderà di cederlo, il Barcellona avrà diritto a pareggiare le eventuali offerte. Certamente sono colpi importanti, manca ancora il terzino sinistro, ma a Roma si è rifatta secondo me un bel trucco. Poi Garcia dovrà mettere insieme tutti i vari pezzi di questo puzzle molto nuovo. Vediamo che cosa fa Romagnoli, vediamo che cosa fa Romagnoli, perché il Milan è sempre su quella pista. Paolo Atti, Barbone Supremo. Ecco. Qual è la maglietta che ti piace di più quest'anno? Beh, la maglietta che mi piace di più non è Ritorno di una classico. Squadra italiana, no. Perché tutte le nostre squadre sono tornate al classico, no? Sì. Però i tuoi collaboratori hanno parlato del ridicolo del Manchester United, che è quella non che solo guardando. Loro, ne ha parlato tutto il mondo. Il Manchester United ha fatto queste due magliette per il merchandising, una quella ufficiale che indossano i giocatori e l'altra con una scollatura AV molto pronunciata per le singole. Esatto. E grandi accuse di sessismo, eccetera, eccetera. Esatto, però abbiamo intanto la presentazione della t-shirt con la foto che voleva queste provocazioni, perché comunque c'è la catenina con tutto il necessario, come si suol dire. Però abbiamo anche un sondaggio dell'Adidas che ci racconta, e qui faccio da valletto e lo cito testualmente, che il 75% dei tifosi ha espresso gradimento, e quindi tutte queste cose di sessismo non sono altro che provocazioni estive. Ah, ma ti piace? Perché la maglia, l'idea piace. Il Manchester è una di quelle squadre che ha più tifosi al mondo. Certo. Un merchandising sicuramente sconfinato, di grandi risultati e un colpo d'occhio notevole. Ah, quindi promossa la maglia per le tifose dello United. Andrea Sorrentino da Repubblica, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Piace anche a te la maglia per le signore dello United, che ha fatto molto discorso. Ma sì, guarda, io non ci vedo nulla di sessista, anzi è una cosa che così amplia il mercato, cioè il sessismo è una cosa, mi sembra un altro discorso quello, anzi è una cosa che è una maglietta per signore. Esatto. Che secondo me non c'è, cioè il sessismo mettiamolo in altri campi. Bravo, bravo, bravo. Stiamo parlando di estetica, quasi di moda, no? Quindi esatto, mi sembra una cosa un po' da bacchettoni. Anzi. Ed è vero che la maglietta classica da calcio è molto maschile come linea, e quindi adattarla alle donne non mi sembra una cosa così. Non è peccato, dici, assolutamente no. Non è peccato. Peccato invece la partita del Milan, il processo di crescita sembra essersi interrotto all'improvviso. Mihajlovic tra l'altro ha detto, sentiamo quel Mihajlovic che dice: abbiamo fatto schifo da tutte le parti. I problemi di attacco sono perché comunque Luis Adriano e Vaca lavorano con noi da 10 giorni, 12 giorni, perciò sono a 30-40%. Questi sono tutti che sono pronti per il campionato, perciò è sicuramente difficile fare valutazioni. Perciò problemi ci sono da tutte le parti, è in difesa, è a centrocampo e in attacco, ma sicuramente lavoreremo e metteremo tutto a posto per inizio del campionato. È vero, Andrea? Ci credi? Sì, sicuramente tutto a posto per l'inizio del campionato? No, perché non c'è il tempo materiale, mancano ormai soltanto 2 settimane, tutto compreso. Però è vero quello che dice Michalo, dice che la squadra ha problemi in tutti i reparti. Del resto è una squadra arrivata decima lo scorso anno, incassando un sacco di gol. È vero che manca ancora un po' di tenuta atletica, ma questo è normale a 2 settimane all'inizio del campionato, ed è verissimo che di fronte a squadre come il Bayern o come il Tottenham, una squadra italiana come il Milan o in assoluto una squadra del nostro campionato paga dazio, perché c'è una differenza di intensità nella corsa, nella tenuta sui 90 minuti delle corse in campo che balza all'occhio in modo evidente. E ieri, ad esempio, Mihajlovic faceva un discorso sui VAT molto interessante, ce lo faceva ieri mattina nell'albergo del Milan. Ormai sapete che con la telemetria, i giubbotti GPS, tutti gli allenamenti sono monitorati costantemente, e si scopre, si apprende che squadre come il Bayern Monaco o lo stesso Real o il Barcellona sprigionano una potenza di VAT nei loro allenamenti, nelle loro partite, che è molto superiore a quella che può sprigionare una squadra italiana, che c'è un problema di intensità di allenamenti che rende il nostro divario dall'Europa sempre più grande. Sì, e su quello bisogna lavorare. Certo, è un discorso non nuovo, anzi, torniamo a parlare ogni volta che le prendiamo in Europa, sul fatto che dalle altre parti si fanno un mazzo molto più grande rispetto a quello che si fanno i nostri. Sì, Carlo. Ma poi la domanda è: perché loro riescono e noi no? Esatto, perché loro lo fanno e noi no? Cioè, tanto le metodologie di allenamento si sa tutto, no? Si sa perfettamente come si allena al Bayern, come si allena al Barcellona, come si allena al Madrid. Esatto. Basterebbe fare come loro, esatto. Perché non lo fate? Questo bisognerebbe chiederlo a Mihajlovic e agli altri, naturalmente. E anche agli altri, ma poi io non credo che sia soltanto un problema sempre solo di allenatori o di staff tecnici. Qui abbiamo un problema di giocatori, di personalità dei giocatori, di personalità dei giovani, di professionalità dei giovani e dei giovani calciatori, che secondo me è uno dei grandi problemi italiani, oltre che del calcio italiano. Sì, è difficile trovare gente che lavori bene tutti i giorni con intensità, senza distrazioni e facendo il professionista 365 giorni all'anno. È molto difficile trovarli in Italia. E questo può essere, può essere anche una risposta a tutti quelli che continuano a sussurrare il luogo comune: ma perché non i giovani giocatori italiani, perché andate a prendere da un'altra parte? Magari questa può essere una risposta almeno. Ma scusa, no Carlo, davvero, perché poi i giovani, non facciamo crescere i giovani, ma guardiamo quanti giovani interessanti ha espresso il calcio italiano negli ultimi 5 anni, e sono tutti durati il tempo di un fiammifero. Uh-huh. È una storia triste, grave, preoccupante. Sì. Mi vengono in mente, non so, Destro e Sciarri, i primi due che mi vengono, ma poi ce ne sono tanti altri. Sono ragazzi che durano poco, durano il tempo dell'impennata con cui si fanno conoscere al mondo, e poi finita l'impennata non rimangono lì, scendono sempre di più. Perché? Perché bisogna chiederlo a Federica Pellegrini o a Valentina Vezzali, che invece durano, o a Valentino Rossi, che saranno anche vecchi, consumati, eccetera, però evidentemente man mano che cresce l'età queste hanno, si fanno un mazzo maggiore rispetto a quanto se ne facessero, se lo facessero prima. Un'altra cosa, Andrea, un'ultima cosa, questione stadio a Milano, mi sembra stia diventando una figuraccia questa del Milan. Oggi sul Corriere della Sera leggo questa intervista a Benito Menedini, che è protagonista della trattativa, eccetera. Ma come? Era tutto fatto, c'erano i modellini col computer, sembrava quasi si potesse già toccare, e adesso finisce tutto qui? Uno schiaffo forse di Barbara? Che l'operazione Portello fosse a forte suspicione, a forte sospetto di soufflé, io lo pensavo da tempo, cioè mi è sempre sembrata un'operazione molto mediatica, esatto, molto mediatica, nel tentativo così o di guadagnare tempo o di guadagnare spazio mediatico distogliendo l'attenzione da altri fatti, ma insomma non ci sono mai state delle basi certe di questa storia, e tra l'altro l'incertezza sul futuro della proprietà del Milan chiaramente sta spazzando via anche questo piccolo soufflé che era stato tirato su. Io credo che alla fine gli spazi per un nuovo stadio a Milano debbano essere necessariamente quelli dell'Expo, perché in altre zone della città mi sembra un po' difficile, e questa storia del Portello mi pare che stia andando verso la sua logica conclusione, ecco. Ma è secondo te uno schiaffo a Barbara Berlusconi e alle sue politiche? Di sicuro è una sconfitta, ma è assume le dimensioni di una grande sconfitta ancor più perché poi la exit strategy da questa storia mi sembra un po' goffa, con la storia della bonifica che il Milan non voleva pagare, come tirar fuori pretestuosamente all'ultimo momento delle questioni che magari in passato non erano state sollevate. Mi sembra un po' così sbagliato come atteggiamento, o appunto un'uscita, un exit strategy un po' goffa, così pretestuosa, diciamo, forse sì, un po' pretestuosa, una migliore, esatto. Grazie Andrea, grazie a voi, a presto, grazie, ciao. A presto, grazie Andrea Sorrentino. C'è stata anche una risposta del Milan alla Fondazione Fiera. In questa risposta sta scritto che Fondazione Fiera esprime sul giornale di oggi valutazioni non condivisibili e molto lontane dalla verità dei fatti, così scrive il Milan. Sarebbe importante che la stessa rileggesse senza fraintendimenti il contenuto di quanto scritto pochi giorni fa dal Milan. Il club non manifesta certo un disimpegno verso il progetto, anzi il Milan però avanza richieste legittime di chiarimenti e di documentazioni finora non pervenuti. Anche perché va ricordato che fino ad oggi si è lavorato su una manifestazione di interesse non vincolante, ora e solo ora si entra nella fase contrattuale. Ad oggi il Milan non ha potuto, come suo diritto, fare i carottaggi né ricevere le carte in merito, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa risposta del Milan all'ente Fiera per questa vicenda. Santo Treviso, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Niente, io sono un tifosissimo della Fiorentina. Volevo chiedervi cosa ne pensate del mercato che ha fatto la Fiorentina, un po' magro. E una seconda considerazione: secondo me Balotelli basterebbe cambiargli un po' la testa, ma sarebbe il top nella nuova Fiorentina, assieme a Rossi e a Bernardeschi. Devo sapere cosa ne pensava lei. Ma sulla seconda lo penso anch'io, ne abbiamo parlato a lungo ieri. Balotelli in questo momento non lo vuole più nessuno è disposto, neanche la Fiorentina che ha negato questo interesse, nessuno è disposto a giocare quattro fish, perché sono veramente quattro soldi su questo giocatore che insomma fino a un anno, praticamente un anno fa, era il capo giocatore di una sfortunatissima edizione italiana dei mondiali. Da lì in poi è stato passaggio al Liverpool, l'accantonamento del giocatore, che guadagna molti soldi, è vero, però adesso le cifre sono veramente ridicole se uno vuole portarsi a casa Balotelli. Si parla di 2 milioni per il prestito, diritto di riscatto e non obbligo a 18, ma questo varia ed eventuali, e con il 70% dell'ingaggio pagato da Liverpool, quindi 2 milioni più 2 milioni lo prendi. Io alla Fiorentina lo vedrei bene in una squadra com'è la Fiorentina che sta nascendo. Paolo Sosa mi sembra uno con le idee sufficientemente chiare per poterlo gestire. Sì, rischierebbe tutto Balotelli, perché prendi un giocatore a queste condizioni, se riga dritto e ti serve bene, altrimenti va in tribuna. magro mercato della Fiorentina. Mi sembra che la Fiorentina abbia preso uno dei giocatori più forti di quest'ultimo mercato, che è quel signore che sta a centrocampo e che ieri Soares è stato il migliore in campo a Stamford Bridge. 800 24 00 24, numero verde. Ci fermiamo per la borsa, poi diamo un'occhiata alle magliette, ve le raccontiamo. Di che cazzo stiamo parlando? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrecchici. Tutti convocati. Allora, torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde. Approfitto della presenza del Barbone Supremo alias Paolo Atti. Eccolo. Barboni di lusso, uno dei marchi più gettonati dai calciatori italiani, per giudicare, dare un'occhiata estetica. Allora, magliette della Serie A. Abbiamo guardato quelle nuove. Ritorno al classico, abbiamo ritorno detto. Al classico, ritorno alla tradizione, agli scudi, alle origini. In questo momento ne citiamo altre due. Una è quella del Torino, che ha messo quel toro. La terza maglia. La terza maglia del Torino, blu, questo toro elegante. Stilizzato, blu notte, collo coreana, colletto aperto, però con il toro nel quale ci sono tutti i nomi di chi il ha reso grande, ha fatto grande il Torino. Bella, eh? Gran bella idea. È bella, questa è una bella idea. Però per me la più bella finora di quelle che ho visto è quella della Lazio. Lazio quella divisa con l'aquila. Principale, credo sia quella blu notte, mm-hmm. con l'aquila azzurra, colletto a V, però anche sul retro il colletto che si alza come la polo, quindi molto lavorata, molto carina. Secondo Lazio. Me è stata l'idea. Quell'aquiloni, Masari. Sì, era bellissima. Quella ti ricordi la maglia della. Famosa maglia degli anni 80, ripescata la scorsa stagione, è stata una grandissima idea di Marco, tanto che ne hanno vendute tutte. A Roma non ne trovavi più neanche una. Poi totalmente diversa dalla divisa B, che poi io sinceramente non so se sia la B, quella azzurra. Quella azzurra molto più classica. Ecco, quella azzurra classica con quella coreana, però quella blu con l'aquilona è proprio differente e molto figa. Molto se figa, mi potete passare sì, questa molto figa, bellissima, bellissima. Di è anche quella che è pure la mia preferita dal punto di vista estetico, ma lui era sì. già l'anno scorso. Ma quella rosa della Juventus, ecco, io non è un colore storico per la Juventus, il rosa sotto, eh? È un colore storico, però quando le ho viste, la bianca nera classica con la schiena nera, stupenda. Se righe più sottili, figa. Quella rosa io preferivo quella gialla, poi dopo dico la gialla e blu che abbiamo visto in quella gialla, in che la rosa mi fa no, non mi fa nemmeno. Poi stiamo aspettando tutti le seconde, terze, quarte, quinte maglie del sì, Napoli, perché che una volta fa camouflage, una volta fa jeans. Camouflage per me era bellissima. Camouflage era bellissima. Era bellissima. Non è stata molto. Perché abbiamo solo una divisa del Napoli, eh? Sì, le altre devono essere ancora svelate. Grande sorpresa, che De Laurentiis è molto cinematografico. Sì, esatto. Quindi. Un agosto, un settembre, un ottobre. Aspettiamoci qualcosa di diverso. Quella di jeans non mi faceva impazzire, quella dell'anno scorso. Così così. Così così. Così così. Camouflage top di gamma. Top di gamma, eh? Ho qualche dubbio. Francesco da Novara, buongiorno. Buongiorno, senta, il fatto dei giovani lo trovo un po', cioè trovo una forma di ipocrisia. Allora faccio un esempio terra terra. Ricordate tanti anni fa Vieri che continuava a lievitare di prezzo, eccetera, perché le società che se lo giravano avevano problemi di bilancio. Allora io penso che i presidenti italiani sono molto più interessati, fanno più business in tutti i sensi compravendendo calciatori piuttosto che investire nel vivaio, perché nel vivaio non c'è movimento, non c'è compravendita, mentre all'estero si punta anche sui vivai. Il vivaio, comunque, concludo, non rende ai presidenti. I presidenti sul trading ci guadagnano in tutti i modi. Questa è la mia idea. Sì, grazie. Sì, questo è in parte vero. Vale anche da altre parti, non solo in Italia. Ci sono delle regolamentazioni sui vivai, per cui tu sei obbligato a mettere sotto contratto il giocatore quando ha, per dire, 16 anni, può essere vincolato per 2 anni. Ora non ricordo esattamente tempi e tecniche contrattualistiche, però è poco conveniente se vogliamo investire sui vivai, perché rischi di crescere giocatori che poi ti vedi soffiare sotto il naso. Vale però il discorso che ha fatto prima Andrea Sorrentino: ci sono paesi in cui i giocatori, anche quelli giovani, anche quelli del vivaio, si allenano molto più rispetto ai nostri, hanno probabilmente più fame, hanno più voglia, hanno più desiderio di emergere, o semplicemente hanno una cultura dello sport differente. Claudio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire in merito all'intervista del direttore dello sport che è intervenuto. Ha parlato solo di Roma, ha parlato della foto di Totti, che purtroppo sì, è bravo a giocare ma fa solo quello, è famoso anche per le foto, e fra 48 ore la Lazio si gioca l'ennesima coppa. Zero parole. Beh, che mi dici? Oggi abbiamo parlato di quello, domani parleremo di quell'altro. Di Lazio abbiamo parlato moltissimo e abbiamo anche detto che secondo me nei giorni scorsi, eccetera, io sono abbastanza preoccupato per la condizione della Lazio, perché non ha fatto un buon precampionato. Mi piace molto invece il mercato della Lazio, perché ha investito, ha fatto veramente una politica sui giovani. Non sono magari giovani italiani come piacerebbe a molti di voi, ma sono giocatori estremamente futuribili. Prosegue su questa lunghezza d'onda, su una lunghezza d'onda inaugurata negli anni scorsi. Mi auguro soltanto che siano stati fatti correttamente i conti per quanto riguarda la preparazione, perché sarebbe fondamentale, anzi è fondamentale, avere tre squadre italiane in Champions League, e questo compito del preliminare, spesso per le nostre durissimo, amarissimo, adesso tocca alla Lazio, che magari passato il turno, come ci auguriamo, potrebbe completare la squadra. Si torna a parlare di Balotelli in questo caso, perché dagli stessi giornali inglesi viene ogni giorno accostato alla Lazio. Sergio Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Sentivo prima parlare di preparazione di VAT sprigionati dagli atleti, sì, grazie a queste nuove tecnologie che possono, diciamo così, interfacciarsi e far capire. Ma io volevo portare anche questa, volevo manifestare anche questo mio punto di vista. Ma secondo voi il fatto che vedere una partita di un campionato estero, e il fatto di vedere che la partita non è mai spezzettata da falli tattici, mm-hmm, e comunque c'è una volontà, mm-hmm, degli attori, quindi dei calciatori e quindi probabilmente anche dell'allenatore, di fare puro calcio rispetto, sì, a bloccare l'azione altrui per poi fare una breve ripartenza. Sì, sì, ha ragione. Adesso non si vede il pressing, quindi non è che il muscolo principale del nostro corpo, come diceva qualcuno che voi ricorderete meglio di me, non è che questo, la nostra mente fa sì che le performance degli atleti siano poi inferiori a quello che sono le performance degli atleti e dei calciatori degli altri campionati? Lei ha ragione, si gioca in modo diverso in Italia e ce ne accorgiamo tutte le volte che mettiamo il naso fuori, che andiamo a giocare in Europa. Questo è un discorso che abbiamo affrontato molte volte e che mi trova concorde. Da noi si giocano, come si dice nel rugby, due o tre fasi e poi il gioco si interrompe. Dalle altre parti invece di fasi, cioè di azioni, di, o meglio, per chiarire, azioni di gioco in cui il gioco stesso non si interrompe, magari ne giochi 10 di fila. In Italia invece è un continuo fermarsi e ripartire, è un continuo sprint a scapito del fondo e della continuità del gioco. Abbiamo fatto questo discorso diverse volte anche con ad esempio Mondonico, che ci ha parlato di fibre bianche, fibre rosse, di fisiologia. Non c'è nulla da fare, in Italia il gioco è davvero troppo spezzettato e troppo interrotto, e quindi la preparazione viene fatta molto spesso sull'irrobustire i giocatori, anche questa lunga polemica già dai tempi di Mourinho, e questi continuano ad andare in palestra, a diventare grossi senza il mio consenso, vorrei allenarli in un altro modo, eccetera eccetera. Discorso molto lungo, complicato, però basta guardare una partita del campionato italiano, mettere due monitor, vedere due partite, una del campionato italiano e una del campionato che volete voi, e poi contiamo quante volte si interrompe il gioco da una parte e quante volte si interrompe dall'altra. Bruno, provincia di Piacenza. Buongiorno. Buongiorno. Io ero per l'atleta, la più grande atleta italiana. Per me è brava la Pellegrini, penso però la Vezzali sia superiore, anche perché mi sembra che si dedichi un po' meno al marketing di se stessa e così via, e quindi poi pratica anche una disciplina più difficile da capire e così via, però il suo rendimento è inequivocabilmente superiore. Poi mi permettevo di segnalare la Simeoni. Io sono vecchio e quindi me la ricordo, E sul nuoto devo dire che secondo me c'è stata una allo stesso livello della Pellegrini, che è la Calligaris, che però nessuno ricorda che correva contro gli uomini all'epoca, certo, e che ha perso le Olimpiadi solo perché correva contro gli uomini della Germania Est, se no avrebbe vinto le Olimpiadi. Di Novella Calligaris non si è dimenticato nessuno, però onestamente la longevità agonistica di Federica Pellegrini è qualcosa di mostruoso, perché abbiamo imparato a conoscerla ad Atene 2004, è passata un'era geologica, e rimanere nello sport di oggi a questo livello in uno sport come il nuoto, la scherma è uno sport meraviglioso nel quale contano sì la preparazione, contano i riflessi, ma il nuoto lì tutte le volte ti trovi contro gli squali, e la cosa incredibile, clamorosa, è come Federica sia riuscita ad esempio ieri a battere Missy Franklin, che è un mostro, ha perso per 16 centesimi con la Ledecky, che è un altro mostro, giovanissimo, 18 anni, qualcosa di inarrivabile, di inavvicinabile. Vi rendete conto, dopo la carriera che ha fatto la Pellegrini, cosa vuol dire comunque arrivare ad un mondiale e giocarsi le medaglie contro queste? Guardate, vi leggo cosa ha scritto, vi leggo subito cosa ha scritto alla fine del suo fondo Umberto Zappelloni, titolo: Federica migliore italiana di sempre, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Senza mancare di rispetto a Sara Simeone o Valentina Vezzali, non pensiamo che ci siano dubbi. La ricchezza del suo palmarès, cioè di Federica, 4 ori mondiali, 6 ori europei, 1 oro olimpico, la longevità della sua carriera dal 2004 a oggi, ha sempre vinto almeno una medaglia all'anno. Lo sport in cui ha primeggiato, la sua popolarità anche fuori dalle piscine, ne fanno la campionessa globale come mai ne abbiamo avute prima. Abbiate fede, con la maiuscola, non stiamo esagerando. Paolo Atti, Barbone Supremo, Barbone di Busso. Federica Pellegrini è anche molto glamour, e io in questo non ci trovo niente di male, a patto di non esagerare, perché è anche giusto costruirsi un'immagine fuori, un personaggio, eccetera. È la più grande atleta italiana di sempre. Io non lo so, sono molto propenso per il sì, però ascoltando anche i vari commenti, la Vezzali sicuramente ha una longevità, e poi qualcuno ha citato la Idem, che se dobbiamo guardare la longevità, certo, quella non la batte nessuno, ma è un'altra cosa. Sì. Lei sempre vincente, sempre prima, come hai citato tu Valentino Rossi. Ed è dura stare in quel mondo, stare lì davanti. Ma sai quanti sacrifici ci vogliono? Puntuale ai mondiali, puntuale alle Olimpiadi, certo, e non parliamo di campionati, ogni anno parliamo di... I fenomeni escono continuamente, esatto. Perché Missy Franklin è un fenomeno, Ledecky è un fenomeno, sono ragazzine mostruose, cioè tu vai a nuotare con gli squali, per nuotare con gli squali e vincere medaglie devi essere... La passione si sente, si deve sentire per forza. Allora, fermiamoci per il traffico, Marco da Como, Fabio da Roma, torniamo poi a parlare di nuoto e ci colleghiamo anche con Kazan. C'è traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. Forse è la prima volta nella mia vita che piango di gioia, perché insomma dopo 10 anni sono riuscita per la 6ª volta consecutiva a un mondiale a prendere una medaglia nella gara che per me è la più importante, quindi non sapevo se ce l'avrei fatta, e forse sono state anche un po' lacrime di sfogo, ecco, un calo di nervi dopo una gara così importante. Ci dividiamo sull'argomento Federica Pellegrini, c'è chi ricorda l'Assensino, un oro olimpico, 4 mondiali, 5 europei, 20 medaglie totali, sì, però stiamo parlando anche di uno sport diverso come il windsurf, meraviglioso, ma di un tipo di concorrenza differente, no? Rispetto alle gare principali del nuoto. Tanto io e Paolo Atti ci siamo divisi, stiamo parlando anche di divise calcistiche, ci siamo divisi a questo proposito sulla terza maglia della Juventus, nera, bella, sì, sul pantaloncino. Esatto, a me piace molto, l'ho notato in ritardo. Da un nero che, anche perché, come si dice, come si può descrivere? Questo qui è sfumato, è nero, sfuma in bianco. Sfuma verso il bianco. In basso, dove c'è lo scudetto, lo stemma della Juve, diventa bianco. Non mi dispiace, vorrei vedere dal vivo, magari al campionato iniziato le guardiamo tutte con calma, sì, anche per par condicio, perché dopo uno dice che parliamo di questo, non di quello. Parliamo di tutte le divise della Serie A. Di tutte le divise della Serie A, naturalmente, compreso quella del Chievo. Non so se le disegna ancora Campedelli, certe volte gli riuscivano bene, altre un po' meno bene. Marco da Roma, da Como, buongiorno. Grazie, magari da Londra. Complimenti per la trasmissione, grazie per la compagnia. Volevo fare una domanda sui settori giovanili italiani. Giustamente voi dicevate che nessuno investe perché poi a 18 anni li portano via, però non mi sembra che ci sia una grande richiesta all'estero dei nostri giocatori. Volevo sapere voi cosa ne pensavate, secondo voi perché non riusciamo a farli durare almeno fino a 30 anni e ci perdiamo, dobbiamo aspettare che Pirlo continui a giocare. La domanda non è facilissima, non è semplicissima. Però voi siete molto precisi anche. Guardi Marco, io ho detto che a me piace moltissimo quando, e faccio un tifo infernale, quando vedo un giocatore italiano andare all'estero, avere il coraggio di fare questo tipo di scelta. Ok, a casa mia non trovo spazio, voglio fare il giocatore, non trovo spazio qui, vado a giocare in Belgio, vado a giocare in Olanda, vado a giocare, se sono fortunato, in Spagna, oppure vado a giocare in Portogallo, vado a giocare dove c'è qualcuno che mi cerca e mi vuole. Ci sono alcuni giocatori italiani che hanno fatto questa, che hanno seguito questa trafila, e poi lì te la giochi, perché a quel punto non vale più il discorso ma noi siamo italiani, non valorizziamo i nostri giovani perché preferiamo prendere gli stranieri. Lì ti metti in gioco sul libero mercato, e se sei bravo emergi. Verratti è bravo, è titolare del Paris Saint Germain. Giovinco è andato in America, va bene, vi direi, è andato in America, ha coperto una montagna di soldi, però intanto ne ha segnati 3 anche stanotte all'Orlando, squadra di Kakà, priva di Kakà, ed è capocannoniere del campionato con 16 gol in 21 partite, 8 nelle ultime 5. Bisogna farli, anche in America i gol così. È un piacere ritrovare, ci avevamo fatti una mezza promessa, Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, che sta seguendo con grande attenzione e anche con un gran volume di pagine scritte i mondiali di nuoto in Russia, a Kazan. Ciao Ale. Ciao, buongiorno. Sì, siamo i mezzofondisti delle pagine, bravo, come il grande Greg. Sì, ci ispiriamo a lui. Ti fanno lavorare un casino. Sì. Ma è bello perché l'ambiente è bellissimo, sono belle gare, i ragazzi li avete visti, sono fantastici, quindi insomma, una fortuna. Dimmi che ti sei commosso anche tu a vedere la Pellegrini sul podio. Ma guarda, io mi esalto sempre quando vedo, sì, posso anche dirlo perché sono imprese, insomma, questi sono veramente, veramente grandi, insomma, nella fattispecie poi sono due storie che viaggiano parallele, diverse, no? Insomma, una campionessa alla fine della carriera che sta dimostrando, no, una grandezza, insomma, gli aggettivi li abbiamo finiti e quindi non starò a inventarne altri. L'altro che è agli inizi di una carriera che potrà essere come quella di Federica, se non addirittura migliore, perché stiamo parlando di un puro sangue fantastico. Quindi a chi piace lo sport non sfugge, no, l'emozione di fronte a queste prove. Poi chiaramente c'è anche l'apprezzamento tecnico, perché qui c'è un lavoro, no? Un lavoro di una vita, un lavoro insomma di qualche anno nel caso di Gregorio, anche se poi questi cominciano talmente presto che a 20 anni in realtà sono già 15, non so, 10, 12. Vedi perché stiamo discutendo, che è un gioco, naturalmente, stiamo discutendo del valore assoluto di Federica nel panorama della storia dello sport femminile italiano. In molti scrivono, ad esempio, ho citato prima Zappelloni, la più grande sportiva italiana di sempre. Poi ci sono i soliti, qualche ascoltatore molto ben educato che mi scrive, ad esempio, via SMS: imbecille, la Cagnotto dove la metti? La metto senz'altro nel Gotha. Magari l'imbecille no, ma la Cagnotto la metto senz'altro nel Gotha. Però vedi, emergono così presto le idee di 18 anni. Federica ieri ha perso per un'unghia da questa, che è un mostro, e ha battuto Missy Franklin, che aveva dominato le Olimpiadi. Quindi secondo me la storia dello sportivo va valutata anche nella continuità. Inizia a 16, ma a 30 sei ancora lì. No, hai ragione, la grandezza assoluta la fa diciamo appunto la durata della carriera a questi livelli. Non a caso noi ieri, ti ricordi, paragonavarlo a Federico Valentino Rossi, no? Certo. Dicevamo Bedecchi e Marquez, e ci stava e ci sta tuttora. Io ieri guardavo il podio di queste tre meravigliose nuotatrici, 27 anni, 18 e 20, e in uno sport che consuma, perché questo è uno sport in cui la candela, no, si spegne. Bravo. Un attimo, ne abbiamo viste di carriere durare un bravo, attimo bravo. E allora una ragazza, una donna ormai che è partita ragazza, adesso donna pronta a una nuova vita extra sportiva fra un anno, e fa ancora quello che fa, che devi dire? Poi dopo certo ognuno fa le sue scelte, non c'è bisogno di insultare nessuno, non è che ti fiamo. Sì, sì. Io la penso come hai citato Zappelloni, la penso come te, insomma credo che sia la più grande. Però allora puoi citare anche la Vezzali, no, per esempio. Certamente. Quindi insomma, ognuno ha il suo cavallo di razza su cui puntare. Lo sport poi è fatto di pareri, di opinioni, se no torniamo a Maradona, Pelé e chiaro, Messi, quindi insomma è inutile. No, poi possiamo dire però, okay, insomma, il nuoto a questi livelli, dicevi tutti, consuma molto di più, ad esempio della scherma consuma, a quei livelli. Poi detto esatto, questo esatto, devi arrivarci anche nella scherma a quei livelli. Possiamo no, considerare per carità, però, la concorrenza, no? Il coefficiente di consumo, se possiamo usare un'espressione così, mi porta a dare primato a Federica Pellegrini. Però questo è, diciamo, è un parere personale. Ma è chiaro. E come tale vale, però quello che ha fatto ieri è incredibile. Credo che anche la sua stessa emozione lo confermi, no? Perché poi quando è la prima volta che piango di gioia, no? Devi arrivare alla maturità, all'età adulta, per scoprire sì. emozioni quasi, insomma, adolescenziali, infatti, quindi è stato bellissimo. E quindi possiamo solo, è un po' retorico dirlo, no, ma possiamo solo ringraziare questi grandi atleti, così. E per fortuna ne abbiamo un altro che sta in rampa di lancio, insomma. Quindi, poi dopo ecco, si può discutere se sotto questa sotto il pelo del livello c'è un movimento, insomma, questo poi lo si può fare in un altro senso. Adesso godiamoci loro. Ma è chiaro, adesso godiamoci loro, che una la stella che brillerà sempre e speriamo fino a Rio, e l'altra la stella che sta nascendo, cioè Greg Paltriniere, hai ragione. Ale, grazie. Speriamo bene. L'ho visto molto carico. Ho avuto un incontro con la Faccio fatica a questo punto a sentire Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera da Kazan, ma sai, la distanza è tanta. Kazan, Paolo Atti non è dietro l'angolo. Poi a Pellegrini comunque, vederla piangere è tanta roba, perché lei è anche poi, una fredda. Sappiamo che a 25 anni sei già vecchio nel nuoto, questa è già 30. L'hai conosciuta, no? Sì, l'ho conosciuta. Impressione così? Impressione di una che è sempre collegata, concentrata, e non ce n'è. Due palle così? Sì. Però non arrivi lì, no. Non arrivi lì a questa età. Fabio Roma, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono uno sfegatato tifoso interista che, al di là dei numerosi acquisti, però resto molto scettico sul nuovo corso della gestione Mancini. Parliamo di circa 85 milioni spesi un anno e mezzo. Tra l'altro tutti acquisti rimandati nel tempo, nella speranza chissà di quale piazzamento, chissà quale plusvalenza. Io credo che il problema, come sempre, sia a monte, quindi zero programmazione obiettiva, e scientata da parte della dirigenza, e scelte molte volte davvero illogiche che un domani purtroppo possono comportare scenari e cessioni spiacevoli. Voi cosa ne pensate? Che non è facile ricostruire una squadra da zero, non possiamo dimenticare tutti i denari buttati dalla finestra dalla Juventus negli anni che ben vi ricorderete, quando sembrava impossibile mettere insieme una squadra logica. Secondo me l'Inter ha fatto in questa stagione, in quest'estate, una campagna acquisti molto intelligente, ma senz'altro da compiere, da concludere e da completare. Ci fermiamo qui perché l'orario estivo ci porta fino alle 15, ma poi riprenderemo nel campionato con Pardo, con tutti quanti, fino alle 15:30. Paolo Atti, grazie. Grazie a te, no, grazie. Torno a trovarci, Barbone Supremo, parliamo di magliette, sport, estetica. Tornerò presto. Torna presto, prestissimo, quando vuoi. Grazie a Giorgio De Luca, al nostro autore Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchione in redazione. Domani alle 2 vi voglio tutti qui. Ciao, tutti convocati. Vi ringrazio tutti. bacio a tutti.